via di qui, piccola! Non vedi che sei lenta e impacciata? Spostati che mi ostruisci il passo! Sentirsi chiamare piccola con aria di sufficienza non è mai simpatico, ma diventa addirittura umiliante se a farlo è una creatura in realtà molto più piccola di te. E quella lucertola smeraldina era davvero molto più piccola di Clara. Infatti Clara era una graziosa giovane foca monaca. Abitava nel nord del mare di Sardegna, vicino all'isola dei Gabbiani. Adesso mi sposto, disse Clara alla piccolissima lucertola, che intanto batteva impaziente la zampina. Fai presto, foca! Ammesso che tu sappia cosa significa la parola presto, disse insolente la lucertola. In realtà la lucertola avrebbe potuto passare senza difficoltà. Clara era distesa, infatti, su uno scoglio piatto e largo, tanto grande da poter far passare una quindicina di lucertole scivolando accanto alla massa scura della giovane foca. Era chiaro che la lucertola si divertiva a punzecchiare la foca, sapendo che Clara, con il suo carattere dolce e remissivo, ne avrebbe sofferto senza reagire. Ogni giorno la lucertola trovava una scusa per trattare male la giovane foca o semplicemente per umiliarla, facendola sentire inferiore e inadeguata. Vediamo un po', le aveva detto qualche giorno prima. Che ne diresti di fare una gara? Quale gara? Le aveva chiesto candidamente la foca. A che cosa serve una gara tra una foca e una lucertola? Semplice. Faremo una gara di velocità e serve a stabilire chi di noi due è più in alto nella scala evolutiva. Insomma, serve a stabilire chi di noi due è superiore. Aveva risposto con un sorriso perfido la piccola lucertola. La gara di velocità non aveva avuto storia. La lucertola aveva ovviamente vinto, raggiungendo lo scoglio bianco in pochi secondi, mentre Clara, avanzando a strappi sul suo corpo ricco di grasso, era arrivata al traguardo mentre il sole stava già calando. Insomma, ogni giorno la diabolica lucertolina trovava qualche nuova occasione per prendersi gioco della giovane Clara, che, dal canto suo, era così buona e serena da non provare mai rancori verso il piccolo rettile. Quel giorno, dopo che la foca si era fatta da parte occupando una minima porzione dello scoglio per poter permettere alla lucertola di passare, successe un fatto inaspettato. Mentre la lucertola passava lentamente, gonfia di orgoglio, in mezzo al grande spazio che le aveva fatto la foca, un'improvvisa ondata azzurra si alzò dal mare, solitamente tranquillo, della costa Smeralda. L'onda si infranse sullo scoglio e una piccola quantità d'acqua scivolò fin sotto le zampette della lucertola, facendola sbandare come un'auto che slitta sul bagnato. In pochi secondi la lucertola si trovò sull'orlo dello scoglio, con il profondo mare azzurro di Sardegna a pochi metri sotto di lei. Continuando a scivolare, la lucertola lanciò uno sguardo disperato verso la foca che, alcuni metri più in là, la guardava angosciata, senza poter fare nulla. Fu così che la lucertola cadde in mare. Un grosso problema, visto che l'animaletto non sapeva nuotare. Pur affannandosi a muovere le zampette, il piccolo rettile si sentì spacciato, continuando ad affondare. Le forze cominciarono ad abbandonarla e lo sguardo le si annebbiò, tanto che non riuscì a distinguere nulla in quella massa oscura che le si avvicinava a tutta velocità. Stava ormai svenendo quando sentì una cosa morbida e calda avvolgerla, mentre il buio calava su di lei. Qualche minuto dopo, la lucertola respirava e apriva di nuovo gli occhi nel sole caldo dell'estate. Accanto a lei, la bocca ancora aperta che l'aveva ripescata in mezzo al mare e lasciata sullo scoglio ad asciugarsi. La bocca apparteneva a un muso. Il muso apparteneva a una foca che conosceva bene. Insomma, Clara, nonostante le continue punzecchiature e i mille dispetti, l'aveva salvata, prendendola con la lingua e lasciandola solo sulla terraferma, al caldo del sole. Mi hai salvata tu, disse tremando ancora per lo spavento la lucertola. Sì, anche se ho dovuto tuffarmi dalla parte opposta dello scoglio e girarci intorno per tutta la sua lunghezza. Come hai fatto ad arrivare a prendermi così rapidamente? Sai com'è? Sono abbastanza veloce in acqua, disse la foca con la solita modestia. Quasi come te sulla terraferma. Direi che sei molto più veloce e in più, quel che più conta, sei molto più generosa di me. Concluse la lucertola con le lacrime agli occhi. Poi le due creature si scambiarono un grande sorriso affettuoso. Il sole era alto nel cielo.